Yes People, questo è Jolly Roger. Yes People, questo è Jolly Roger. Buonasera a tutti e a tutte le amiche che ci ascoltano, tutte le persone che ci seguono, tutti gli amici e tutte le amiche che ci supportano. Puntata di venerdì 14 aprile, anche se sembra un aprile molto autunnale, questa puntata sarà una puntata dai temi abbastanza easy. Parleremo del mondo che vorremmo, quindi ognuno di noi racconterà come vorrebbe il proprio mondo e come lo vorrebbe vivere soprattutto. Salutiamo ancora una volta Beatrice Tassone, che è stato ospite telefonico, anzi il nostro primo collegamento telefonico come Pirate Radio. È stata un'esperienza piacevole, una conoscenza ancora più interessante. E quindi noi insomma risalutiamo la nostra amica e speriamo insomma che ci stia ascoltando anche questo pomeriggio in quel di Cologno Monzese. E niente, iniziamo la nostra puntata. Intanto c'è anche ospite con noi in questa puntata il nostro amico Marco del terzo E del liceo linguistico Orazio. Saluto tutti i suoi compagni di classe, nonché l'amico Matteo che è qui vicino a me. Saluto il nostro amico Lucone, che questo venerdì è riuscito a arrivare puntuale e preciso grazie ai potenti mezzi di ATAC. Iniziamo la nostra puntata così. Abbiamo detto parliamo del mondo che vorrei, ho trovato un pezzo che un po' racchiude anche il tema della puntata, un pezzo dei Baracca, anzi no, un pezzo di Terron Fabio e del nostro amico Pavese. Yo, insieme allo Pavese ma qua c'è un terrone. Rudy, senza stress non c'è te guai. Yes King, questo è l'umuno per noi. Original. Shamu shamu shamu shamu shamu. Fumo danzo e ballo lento nella dance floor. Corpo su da movimento bandi dance floor. Come Damian Leoni dentro we are beautiful. Occhi verdi l'epicentro, luci led wall. Lunghi baci dal talento, no amirol. Primo posto al sentimento, reggae gazzol. Ferma tutto in un momento, squilla roll call. Voi in difesa per l'argento, noi golden gol. Siamo voi a quai! niente moni ma ricchi, stai lì, niente vedi nei limiti, we smoke free, radicati all'origine, history, eleganti e decisi, call me Rudy, Maradona senza cocaina, Napoli, movimenti rotondi, orario, Brasi, colorati di gioia, nuova Delhi, eleganti sul pizza, spari, Zoui, non violenti sul bash, Mohamed Ali, tempo genialità, Salvador Dalì, delicati con il rabada, Matisse, ragione e passione, Jacques-Louis David, veterani con giovani, Winami, qualità dalla testa, cioè ai piedi, green, zero storie pretese, fresh and ready, come acqua che la linfa, panchi belli, quando guardo dentro me stesso e penso solo a quello che vorrei, per un mondo fatto di suoni bassi, pesanti, piatti e DJ, profumi forti di ganja, miste d'essenza che danno in lei, fare lumina, manina, le chiamano forward and come again, nella danza l'aria si scalda, sensi bollenti, lava Pompei, i microfoni nella notte splendono, scettri nei mausolei, puntine come diamanti, solcano dischi come trofei, ogni stile dentro il sound come l'Olimpo per i suoi denti. Questo è il mondo che per tutti vorrei, senza stress non c'è dei guai, musica che suona dei guai che già, io vabbè se l'uterone capurano per voi, dilli a tutti che non stiamo a guai, che non mi meglio se lui luce, comunque gioca ulimo costruimo noi, chi non è gente con le custolide, brucia lo fuego su ciò le divide, ieri con noi un famoso palite, che a quelle feste non ci hanno finite, anzi montona ci andiamo da capo, ogni città con lo sound lumato, cultura del nugo con la giusta capo, lo reggaeton a caso, se ballo lento nella dancehall, corpo suda movimento, bandi dance floor, come Damian Leoni dentro, we are beautiful, occhi verdi l'epicentro, luci led wall, ciao acquai, in ritardo sui vostri tempi, più veloci le nostre menti, replay, nere come da figa, vorrei, singue pavoni tra i galilei, poche cose la nostra casa, away, cresce dentro i quartieri, India, Mumbai, cresce dietro la maglia, because we play, e che supera Mario, Montego Bay, original Terron Fabio, from Moto a Soul Sound, insieme a Lupavese, a Quai, Rudy, questo è il mondo che unimo noi, musica genera unity, musica reggae, high quality, shamu, shamu, shamu, shamu, shamu, io fumo la danza e ballo lento, nella dancehall, corpo su da movimento, bandi dance floor, come Damian Leoni dentro, we are beautiful, occhi verdi l'epicentro, luci led wall, lunghi baci dal talento, no a mirror, primo posto al sentimento, reggae gazzol, ferma tutto in un momento, squilla roll call, voi in difesa per l'argento, noi golden goal. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, primo pezzo per noi che spoilera un po' il tema della puntata, che è il mondo che vorrei, qualcuno dalla regia mi suggeriva, ma la canzone di Vasco Rossi, il mondo che vorrei, non ce l'abbiamo, quindi è andata così, abbiamo passato un altro pezzo che introduce comunque il tema della puntata. Minchioneggiamo, scusate i francesismi, ma anche questo fa parte della radio. E iniziamo a gamba tesa la puntata passando subito il mic alla nostra amica Alice. Ciao a tutti, io sono Alice. Allora Alice, come abbiamo detto, il tema della puntata è il mondo che vorrei. Raccontaci il mondo che vorresti tu. Allora, il mio mondo che vorrei... il mio mondo che vorrei è con la sabbia, è con il mare, la sabbia, gli ombrelloni, il bar, il supermercato. Noi avevamo, venendo, racconto un attimino questo piccolo aneddoto, raccontavamo un po', insomma, tu come vorresti il mondo e qua di là, lei raccontava che vorrebbe anche un mondo con un supermercato particolare, che a me mi ha colpito, quindi raccontalo un attimo tu che supermercato vorresti. Allora, io vorrei un supermercato particolare, che a Pietro gli ha colpito molto, però... Colpito affondato, direi. Esatto, diciamo c'è due piani questo supermercato, è tutto di legno, bello perché c'è una scala che sale su, per poi c'è una porticella sopra il soffitto per salire a fare i tuffi a mare, giusto? No, per salire su al secondo piano, però per fare i tuffi al mare

questa era Coca Zero, il pezzo nuovo dei Pinguini Tattici. A noi la Coca-Cola non c'è da una lira, a volte manco la beviamo perché siamo abbastanza salutisti. Questo precisavo, era una precisazione che andava fatto. E ritorniamo qui in diretta. Stavamo parlando intanto con Alice del mondo che vorrebbe Alice, il favoloso mondo di quella era Amélie, però noi abbiamo Alice che è molto più bella e molto più simpatica. Allora, ripasso il mic ad Alice che mi pizzicava con il suo come, ha detto, oh, tu guarda che io devo ancora parlare, c'ho da dire una cosa, e mo te la facciamo dire, dici tutto. Allora, praticamente in questa, diciamo, in questo mondo di spiaggia e mare, è tutto quanto, e c'è... non ci sono le città, e allora non ci sta la spazzatura, avevi detto anche. Non ci sta la spazzatura, però è pulito, ovviamente deve essere pulito. E ci sono animali, ma oltre gli animali ma oltre gli animali ci stanno anche un po' di gattini. Perfetto, che noi sappiamo che Alice è un amante dei gatti. E tornando a noi, insomma, un bel mondo, un mondo che dove si vive in spiaggia, dove si va a fare spesa e non si paga, che è la cosa più importante, visti i tempi di adesso dove costa veramente tutto il doppio. Saranno i discorsi che si fanno anche da vecchietti al bar, se sono il vecchietto del gruppo. E ora sta qui il nostro amico Matteo con il suo compagno Marco, e ovviamente, visto che sono qua, iniziamo subito con... faccio io intanto la prima domanda a Matteo. Il mondo che vorresti tu, a parte che è un mondo che, come, peccato che non si può vedere, il suo mondo è tutto laziale. Terza guerra, vogliamo la televisione, buttare poca larga e catta. Quindi un mondo più pulito, anche tu, un tema che sta ritornando, la pulizia, che è un mondo più pulito finora. Il mare molto poco, e poi il mare poco, un po'... No, mo, no. E forza, allora stai dicendo lui vorrebbe un mondo dove non ci fosse, non ci sono le guerre, non danno le guerre, abbiamo detto. Poi un mondo dove non ci stanno, abbiamo parlato anche una cosa prima, si faceva l'esempio, oltre che di guerra si parlava un mondo dove non ci stanno più le rivalità. Io sono romanista, tu sei un laziale, ci incontriamo per strada, seminiamo. No, abbiamo detto che un mondo che vorremmo è un mondo dove ci fosse anche meno violenza, giusto? Sì, tutto, allora tempi. Che mondo vuoi? Io pieno di amici. Tanti amici, Piero! Perfetto, perfetto. E noi passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo sempre qui a Jolly Roger. Ho una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me. E dimmi se questo sentimento vale anche per te. Balla finché rimanendo ad occhi chiusi, mi dà un bacio e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché ti volevo dedicare mille canzoni scritte se quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se questo sentimento vale anche per te. Balla finché rimanendo ad occhi chiusi mi dai un bacio e poi ti scusi, resta qui solo un secondo in più perché ti volevo dedicare mille canzoni scritte e una chitarra da accordare in quelle notti fino a quando sale sale il sole e perdi il conto delle ore. Ti volevo dedicare quello che provo e non so cosa. Fare serenate, sere nera, serie yeah. Non seguo la moda ma ritorno vinile. Non so se Maradona era meglio di Pelé, ma il calcio femminile è di sicuro più virile. Donne contro maschi, servono entrambi, anche se diversi come gli occhi degli aschi. Amo gli incostanti, parti come Heidi, ti sfogli come Miley, tutta fatta come Billie Eilish. Quando sei vicina sei polemica, quando sei lontana sei l'America. Fai scorrere sangue nella mia vena poetica, come Lucio Dalla parte la mia mano che ti fa una dedica. Penso a te, le parole scono in metrica, è facile trovarle come l'erba su Telegram. Qui le bugie sono in vendita, tu sei siero della verità, meglio del pentotal. La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde tra le nostre ombre. E anche noi vorremmo un mondo più bello, un mondo più dove non esiste violenza, dove non c'è la guerra, quello che stava, un mondo più pulito soprattutto, almeno quello che vorrebbe la nostra amica Alice, e un mondo anche un po' una tematica quella che sta ritornando anche con Matteo. Allora Ciccio, ritorniamo a noi, che mondo vorresti? Cosa mangiare? Camorra e vino. Mitico. Allora, un mondo di carbonara e vino ha vinto poi? E poi vai, arrivi e la colazione e il caffè e il caffè d'osso. Insomma, un mondo di aperitivi, caffè, colazioni, poi insomma c'è un mondo di socializzazione. Ah, una due passeggiate! Ah, che due passeggiate? Beh, giustamente, dopo che uno ha mangiato e ha bevuto, chiaramente due passi almeno li fa. Tiziali! Tiziali! Paura dei cinghiali. Ah, c'ha paura dei cinghiali, ovviamente. Allora, quindi, la passeggiata la dobbiamo fare... Non lavora! Ah, ecco, questo è top, ha vinto. Un mondo dove non si lavora, però si mangia e si beve. Anzi, come ha detto il nostro amico Matteo, carbonare e vino rosso, giusto? Mitico. Senti, ora c'è il tuo amico Marco. E gli chiediamo anche a lui, intanto grazie per essere venuto qui in questo programma folle che è Jolly Roger. Sì, innanzitutto ciao, grazie mille a tutti, e per me è un onore oggi essere qui in questa puntata della radio. Ringrazio ovviamente Pietro per la disponibilità e soprattutto Matteo che è veramente un grande piacere accompagnarlo oggi alla radio. E vabbè, io innanzitutto vorrei un mondo in cui, diciamo, più democratico, in cui l'uomo sia più al centro dell'attenzione e che... gli si conferisca più importanza, ecco, e un mondo sicuramente anche in cui insomma le persone non seguono la massa, la maggioranza, insomma, questo. Perfetto, un bellissimo mondo, e intanto passiamo un pezzo che hai portato tu, Short in the Dark, e poi torniamo qui in diretta. We'll be right back. torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questo era il pezzo che ha portato il nostro amico Marco del terzo E linguistico De Orazio, che ringraziamo ancora qui con noi, e intanto proseguiamo la nostra chiacchierata con il nostro amico Luca. Chiediamo anche a lui qual è il mondo che vorrebbe. Allora, il mondo che vorrei sarebbe supermercati gratis, discoteche, acquapark, grattacieli alti con due ascensori all'interno. Poi un mondo futuristico, per esempio, materialista proprio. Poi anche una pizzeria in cui volevo lavorare con qualcuno, tipo con te, Pietro. Eh beh, certo, il pizzettaro è l'unica cosa che ancora non ho imparato, però nella vita c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi diciamo, un mondo come lo consideri? Questo mondo lo considererei un posto futuristico bello, e poi come ultima cosa da aggiungere, che le persone smettessero di dire parolacce e altre cose. Ah, perfetto, quindi ritorno un po' all'amata pulizia e non violenza di cui parlavamo prima, anche perché obiettivamente Jolly Roger in tutto e per tutto declina qualsiasi forma di violenza, può essere verbale e fisica, quindi ogni tanto teniamo anche a ricordarlo, perché è una delle basi di Jolly Roger e non solo di Jolly Roger. Quindi niente, proseguiamo col nostro pezzo musicale e poi torniamo con Luca e le sue battute, a meno che non volevi aggiungere qualcos'altro. Che volevo fare anche un centro sociale come il Brancaleone. Ah, quindi più spazi dati alla cittadinanza per creare un'ottima cosa. Stanno uscendo parecchie idee interessanti. A inizio puntata eravamo un po' tutti frastornati, però insomma, mondo dei mondi particolari. Andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta e proseguiamo con le nostre consuete rubriche. Chiaramente continueremo a parlare anche del mondo che vorremmo. Cosa c'è? C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure, che anche stanotte si avvolgono su di te. E sono un brivido a volte, ma sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Baby, mi fulmini con gli occhi lucidi, che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi che ti basta, sono due lacrime mie o lacrime tue. Le cose sono due, due, solamente tu. Una coltellata ogni parola, solamente io. Nei discorsi sulla bocca della gente, forse te ne tardi adesso, ma lo rifarei lo stesso. Con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. In questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Fine di tutte le nostre telefonate. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che continuano ad ascoltarci, tutte le amiche e le amiche della chat di Pirate Radio di Telegram, ricordo a tutti che le puntate le potete trovare sui nostri canali di archive.org, dove potete riascoltare tutti i nostri podcast. E un saluto ovviamente alle nostre amiche del gas, che, con le quali condividiamo da inizio Jolly Roger lo spazio del Brancaleone. Ho sentito una cosa che non volevo sentire, però mo intanto gli devo passare il microfono, facciamo dire direttamente a lui, il nostro amico Lucone, che anche lui ovviamente vuole dire qual è il mondo che vorrebbe. Con la luna. Perfetto, con la luna e poi? E il mare. Perfetto, insomma quest'anno è un mondo che vorrebbero tutti, pieno di mare, di sole, di vita, un mare pulito. Con amici. Perfetto, un mondo fatto solo di amici dove nessuno si litiga. Perfetto, un mondo spettacolare. Abbiamo raccontato del mondo che vorremmo in questa puntata. Sono emersi supermercati a gratis, dove arrivi, mangi e te ne vai salutando gli amici cassieri con una ricca pacca sulle spalle. È un mondo che vorremmo in tanti in questo periodo, soprattutto perché non ci bastano mai i soldi e c'è tanta povertà in giro. Ma detto questo, Matteo ha detto anche lui piacerebbe un mondo dove non ci fosse la povertà, e sarebbe il top del top. E ora stoppiamo un attimino la nostra chiacchierata e passo il microfono al nostro amico Luca per... Aspetta un attimo che c'ho un'interferenza, dici Lucone? Cioccolato. Ha un mondo cioccolatoso, perfetto, ci piace, visto che comunque è passata Pasqua, le uova ancora si stanno mangiando. Cioccolatoso al latte o fondente? No, già mangiato. Ma come lo vuoi? Al latte, perfetto, giusto compromesso, hai vinto, Luco. E mentre adesso passo il mic al nostro amico Luchino per il momento delle sue battute. Qual è la differenza tra una moto e una macchina? La macchina può essere messa in moto, la moto non può essere messa in macchina. A momenti ci scappava il morto, poi l'abbiamo ripreso, il funerale è andato benissimo. Arrestato un concorso che era stato bandito. Perfetto, e poi qual era l'altra che ci ha fatto, diciamo, scompisciare? Qual è il cinese ubriaco? Cin Cin, grazie a Damiano. Perfetto, e con questo salutiamo anche il nostro amico Damiano, che questa settimana purtroppo non è venuto a trovarci in puntata. E dimmi, Luca, che stavi dicendo? Cosa? Non c'hai un'altra battuta? No, non c'era, scusate perché ero un attimo confuso. Perfetto, va bene, allora, nel momento di confusione ci ricolleghiamo con il mondo passando un pezzo che ha portato il nostro amico Marco, che è ancora qui con noi. È un pezzo che io non conosco, che si chiama Radici. Non mi importa di quello che pensi, di quello che dici, no, non ti conosco, noi non siamo amici. Sono stato così tanto per strada, che ci ho messo le radici. Sai che sono la loro voce, perché parlo di quello che vivo. Tutto quello di cui parli, noi lo sappiamo che è finto. Mi porto i soldi, dopo li lancio per aria, non ho mi sposti. No. Questa strada è la mia casa, lambo due posti. Tengo gli occhi incollati alla strada, sempre al tuo fianco, comunque vada. Prima il rispetto e dopo la fama. Con il mio blood contiamo Rex, non voglio una hoe. Vieni al mio party, non dire di no. Rispetto per tutti tranne per i cops. Tu sei un ratto, non fare più il boss. Se sei un ratto non fare il boss. Voglio la lealtà, non voglio una hoe. Non le compro tutto quello che vuole, lei non mi dice mai di no. Lascio booty sul mio sticky, le do quello che ho. Avevo i buchi sui vestiti, ma ora proprio no. Lei me lo chiede forte sopra un Range Rover Sport. Sognavo su un muretto quello che ora ho. Non mi importa di quello che pensi, di quello che dici, no. Non ti conosco, noi non siamo amici. Sono stato così tanto per strada, che ci ho messo le radici. Sai che sono la loro voce, perché parlo di quello che vivo. Tutto quello di cui parli, noi lo sappiamo che è finto. Mi porto i soldi, dopo li lancio per aria, no, non mi sposti. No. Questa strada è la mia casa, lambo due posti. Tengo gli occhi incollati alla strada, sempre al tuo fianco, comunque vada. Prima il rispetto e dopo la fama. Mi ricordo quando ero insicuro, quando non mi sentivo nessuno. In giro 7 giorni, 24 ore, non avevo mai visto un Rolex. Posso comprare quello che voglio, collando al collo brilla come il sole. Fanculo i soldi, io non sono un servo, sarò sempre un re da dove vengo. No, non mi scordo del blocco, guardavo di sotto, adrenalina al posto di blocco. Spingevo il gas, bruciavo il rosso, il sudore con la roba addosso. Quello che vivo è scritto sopra la mia pelle. Morire leggenda, sì, bruciando come le stelle. Non mi importa di quello che pensi, di quello che dici. Non ti conosco, noi non siamo amici. Sono stato così tanto per strada, che ci ho messo le radici. Sai che sono la loro voce, perché parlo di quello che vivo. Tutto quello di cui parli, noi lo sappiamo che è finto. Mi porto i soldi, dopo li lancio per aria, no, non mi sposti. No. Questa strada è la mia casa, lambo due posti. Tengo gli occhi incollati alla strada, sempre al tuo fianco, comunque vada. Prima il rispetto e dopo la fama. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, stavamo marmellando cose futuristiche, cereali, 3D e compagnia bella. E ritorniamo un attimino in noi, perché questo è il bello anche della diretta, è questo, che mentre passa un pezzo noi continuiamo a dire cose. Ad esempio Lugone adesso ha detto Forza Inter, che forse sei diventato in questi 3 minuti e mezzo di pezzo è diventato anche interista nel frattempo. E abbiamo fatto, è stato il momento delle rubriche del nostro amico Lughino, e ora è consuetudine, Ciccio, è il momento delle scommesse, dei pronostici. Ci siamo? Sì. Allora andiamo, dai, spoileriamo qualche partita. Allora, Empoli del Remolese, e poi Napoli Verona Peter Napoli, poi Inter Monza Peter Monza, Piodina Lata Peter Lata. Perfetto. Queste chiaramente Matteo si assume tutte le sue responsabilità, fede calcistica o meno, ha detto anche insomma del Monza, e niente, quindi io invito tutte le persone che giocano. Milan Bologna. Ah, Milan Bologna e c'è il Bologna, questa se l'era persa in un momento di così, anche come ho detto prima, purtroppo il bello della diretta è anche questo. E andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo sempre in diretta. Questo è Follemente Jolly Roger. My life's in books some sage, you know it's true. All the things come back to you. Torniamo in diretta, questo è sempre Jolly Roger, si continuava a parlare del mondo che vorremmo, il mondo che vorrei io, visto che comunque abbiamo parlato un po' tutti, è un mondo un po' più colorato, dove ci sia meno stress, dove la gente è più tranquilla, dove, come hanno detto tutti, non esiste la sporcizia, dove siamo tutti allegri e spensierati, dove obiettivamente il clima perfetto è quello che non esiste più. Insomma, un mondo come altri tempi, insomma, quindi speriamo che qualche cosina nell'arco dei tempi si possa recuperare, oltre che la serenità e tutto quanto, però insomma è stata una puntata piacevole. A dirla tutta, noi avevamo programmato la nostra discussione su un tema che non era così leggero, avevamo in mente di parlare di bullismo, di cyberbullismo, ma ci sarà modo, diciamo che piano piano anche quello lo affronteremo, però insomma ci piaceva portare un po' di allegria e racconti delle nostre speranze, soprattutto le speranze dalla parte più giovane di Jolly Roger. E saluto intanto tutti gli amici di Gemini che ci supportano, soprattutto Radio Grad che ci ritrasmette tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18, ormai con loro è nata una piacevole amicizia e una piacevole collaborazione, un po' come con tutta Gemini Network. E passiamo un altro pezzo e poi proseguiamo la nostra chiacchierata finale, perché il tempo purtroppo stringe e l'ora di Jolly Roger sembra pochissima, ma obiettivamente sta diventando sempre più ricca di contenuti. E andiamo così. Ooh, if I let you put your hands all over me. this. Gotta prove yourself and show me what your purpose is. Show me that you really worth it, all my services. I keep a nigga on my arm where my purse is in. You looking at a centerfold. Playboy bunny wanna take me home. Bad bitch from head to toe. Tryna fold me up and lick it like an envelope. Yeah, all eyes on me. I'm the girl of your dreams. Boy, you know you hit the lottery. Cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put your hands. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parlava appunto del mondo che vorremmo, tutti un po' stesse tematiche, un mondo più ordinato, più pulito, dove la violenza non è più di casa, insomma un mondo bello, un mondo bello. E siamo agli ultimi minuti di quella che è stata la puntata di oggi, ora faccio fare i saluti ai ragazzi. Ciao! Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, una prof Mirra. Perfetto, e anch'io mi associo ai saluti di Matteo che saluta la prof Mirra. Ciao, grazie mille, è stato un piacere, è stato veramente un piacere, grazie mille a tutti. Grazie a te Marco, speriamo insomma che hai trascorso con noi un pomeriggio particolare, questo è poco ma sicuro. La nostra amica Alice che ci dice... Ciao a tutti! E buon weekend soprattutto! È giusto! Perfetto, vai Lucone! Ciao! Perfetto, faccio il saluto almeno in qualche lingua particolare delle due! A dopo aiuto! Perfetto! Auf Wiedersehen! Perfetto, e noi ci ascoltiamo, ci risentiamo settimana prossima, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18! Non ne parla mai più, e cinque la mattina, it's me and you. La rosa ci despi, se mi sa senza te, la battere in tuo cuore, tu ti scordate di me. E gira mergelli, da porta dove tu, un mezzo pacchettina, it's me and you. La rosa ci despi, si stonga senza te, la pioggia in tuo cuore, tu ti scordate di me. voce furcella. Oggi mamma che chiatto, gatta dopo tu, parla ma chiaro chiaro, it's me and you. Una festa a trovare, muscure tutto blu, parla ma chiaro chiaro, it's me and you. Sempre a botte, in te c'è solo la strada sotto.